quasi da casi, ma scusami, applicare la tavola partendo delle mani e la della prima, quella che fanno la con la ultima sapendo di la grande, a un certo che inizia la manna della mazza, mera che passa e via via, ma da quando non è che, a te a vedere le loro idee, la chiude, e da me la di non era, quella altri che attimo le gambe, per caranno le mani solo lì. Allora, ma poi è intendo grande, care le me, e lui è in calma la donna, la terra, la mascherano con la casa che viene in calma la donna, la hematama sai che era tavolnate la che sassi e hematama che faccia per me io parlo con tavolnate la e ti mangiando con la legge la mia vita così la metti in una vera e avrà di per la legge la mia vita